Essere e benessere di Nicoletta Carbone. L'estate ci tira su o ci tira giù? Dipende, dipende, de che dipende. Eh sì, dipende, perché per molti l'estate è sinonimo di ricarica, perché la luce solare è un potente attivatore, l'umore ci guadagna, ma anche l'energia psicofisica. Ma per altri questa stagione è percepita un po' come una minaccia al benessere, perché tutto sembra più faticoso, le forze mancano, le notti si imbiancano. Voi da che parte state? Che effetto vi fa l'estate? Insomma, come state d'estate? Vedo nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto. Quando il clima fa la differenza, c'è anche una scienza che si occupa delle influenze che le variazioni climatiche come caldo, freddo, umidità, vento, luce producono sulla nostra salute. Piante e animali, lo sappiamo, si adattano, no? Seguono con istintiva saggezza, direi, modificando i loro ritmi biologici, l'avvicendarsi della stagione. Noi umani invece abbiamo un po' perso questa capacità, ma possiamo recuperarla perché abbiamo in dotazione tutto quello che serve per mantenerci in equilibrio, adattandoci ai cambiamenti che si verificano dentro e fuori di noi. Per questo vi sto chiedendo se vi state adattando a questo cambio di clima. 800 24 00 24, se volete intervenire, come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter, l'hashtag è Come state d'estate. Molti di voi mi hanno già scritto su Facebook. Paola mi ha scritto: io esco dal letargo, ricordi il famoso ghiro? Maria invece ci racconta che l'estate le dà carica, le giornate sono infinite, tende a fare tante cose, la sera è sfinita, però le piace un sacco. Marina: vivere ogni giorno cercando qualcosa di nuovo, sia in estate che in inverno, mi dà la ricarica per aspettare il domani ed essere contenta di non aver sprecato l'oggi. E chiudiamo con Maria Luisa: prendere la vita come viene, con un po' di filosofia. Saluto intanto il dottor Massimo Gualersi, cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma e autore insieme a Claudio Rinaldi di Super Salute. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Insomma, questo cambiamento di clima. Sì, noi in realtà siamo in costante cambiamento, no? Come abbiamo detto, e non solo i cambiamenti climatici, ma anche il giorno e la notte, i cambiamenti mensili, no? Quelli lunari, obbligano il nostro corpo a mettere in atto diverse azioni per adattarsi a situazioni nuove. Ogni giorno abbiamo una situazione nuova da affrontare, con il clima, abbiamo detto, ma anche con il giorno, la notte. Questo comporta uno sforzo, no? Uno stress in un certo senso, che si estrinseca e si traduce in uno stato di maggior stanchezza a volte, che può determinare anche malessere, addirittura portare alle acutizzazioni di dolore e disturbi. Ricordiamo ad esempio come, non so, la gastrite, la depressione, prendano proprio da questa ciclicità del tempo la loro origine, no? Le sentiamo più in primavera, in autunno. Quindi diciamo che questo è sempre vero, nel senso che il cambiamento è uno stress, ma in genere il passaggio tra la primavera e l'estate fa un po' eccezione, perché si caratterizza per una sorta di attivazione, infatti sì. Dimostrato, no? che grazie al maggior numero di ore di luce, al sole, al tepore, no? E questo è in grado di determinare cambiamenti positivi, energizzanti e protettivi per la nostra salute, che compensano anche lo stress che deriva dal cambiamento. E logicamente questo rischia di essere soggettivo, ma soprattutto le persone che sono in perfetta salute, o comunque che stanno bene, o che sono capaci di cambiare, ecco, di omeostatizzare, come diciamo noi medici, no? E risentono positivamente del cambio stagionale tra la primavera e l'estate. Si osserva ad esempio che grazie al nostro terzo occhio, alla ghiandola pineale che riceve gli influssi della luce del sole, no? E i livelli circolanti di melatonina, che è quell'ormone che ci fa dormire di più, scendono e quindi siamo più svegli in un certo senso. Meno male. Ma anche la produzione di ormoni appunto che ci fanno essere più felici, come la serotonina, aumentano e quindi si attivano. Pensiamo che d'estate anche gli ormoni sessuali hanno una sorta di aumento e questo magari aumentano proprio. Aumentano, infatti ci sono diversi studi che, come i rapporti sessuali, addirittura ci sono degli studi interessanti e simpatici come l'utilizzo di preservativi aumenta durante i mesi appunto estivi, un po' perché abbiamo più tempo, ma proprio perché questi ormoni che aumentano, uniti magari alla tintarella, quindi questa gradevole abbronzatura, ci fanno sentire più interessanti e potenziano la nostra autostima, facendoci diventare più intraprendenti. Insomma, l'estate ci aiuta, nonostante il cambiamento, ad essere pieni di energia, quindi la possiamo sfruttare al meglio. Allora, che effetto fa a voi l'estate? Il dottor Gualerzi ci ha detto che l'esposizione al sole aumenta anche la produzione degli ormoni sessuali e quindi nascono nuovi amori, nuovi incontri. Ma io voglio chiedervi se vi produce benessere, vi sentite più carichi, avete più energia, oppure come mi scrivono ad esempio alcuni ascoltatori che dicono, come Matteo da Bologna, io non sto proprio bene d'estate, il caldo non lo sopporto, amo l'inverno. Mentre Giorgio mi scrive: non solo il sole ma anche il caldo mi fa bene, ma tanto. Abbiamo parlato di energia ed è una parola molto cara al professor Stefano Tirelli, che ho il piacere di avere qua in studio con me, docente di tecniche complementari sportive alla facoltà di scienze motorie dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Insomma, energia, l'energia che ci regala il sole, che ci regala la luce, l'energia che molti degli ascoltatori mi stanno scrivendo, si sentono proprio invadere e pervadere di questa voglia di fare, nonostante il caldo, nonostante l'umidità. Anzi, proprio per quanto riguarda la medicina tradizionale cinese, questo momento dell'anno, questa stagione, è il massimo del cosiddetto yang, quindi è la massima espansione energetica che coinvolge sia l'ambiente esterno sia l'ambiente interno, noi, tutti i sistemi, i nostri apparati, i nostri organi. In questa stagione hanno un'attivazione, come giustamente diceva il dottor Gualerzi, che non si hanno durante altre fasi dell'anno. Quindi approfittatene ora. Certo, è vero. Dovete cercarvi un fidanzato? No, forse quello arriva quando deve arrivare, ma sicuramente è un momento proficuo e sicuramente da utilizzare al meglio. L'energia vista per esempio dal punto di vista della medicina tradizionale cinese è proprio una sorta di fonte di carica, in questo caso, che va a stimolare maggiormente due organi in particolare, sì, il cuore e l'intestino tenue. In realtà, oltre a questi due organi che vengono attivati maggiormente, c'è anche proprio un discorso di metabolismo generale, quindi sì, cuore, intestino tenue, metabolismo. È vero anche poi che ci sono tra l'altro delle situazioni, come si diceva prima, per cui alcune persone in realtà, anziché avere il massimo dell'energia yang durante l'estate, si sentono peggio, quindi su una sorta di condizione di yin, il contrario. Questo dipende proprio dal fatto che ognuno di noi costituzionalmente è diverso dagli altri, quindi c'è chi è già prevalentemente così in eccesso di yang, di calore, un metabolismo iperattivo, e quindi in questa stagione addirittura potrebbe soffrirne, perché caldo su caldo. Ed è questo proprio quello che vogliamo cercare di capire oggi, se l'estate ci tira su o ci tira giù, naturalmente dando anche delle soluzioni. Dottor Gualerzi, lei ce ne darà però anche, professor Tirelli, con l'attivazione di quelli che abbiamo chiamato punti magici. Certamente. In tante puntate. Ne vogliamo subito scoprire uno? Prima di dare la parola al dottor Gualerzi e la parola naturalmente ai nostri ascoltatori che stanno chiamando il nostro numero verde. Mi piace molto quando intervenite numerosi, come si dice. Professor Tirelli. Sì, nello shiatsu, così come nell'agopuntura, si tendono a stimolare due punti. Uno è un punto sorgente, viene chiamato, è il punto rene 3, e l'altro è il punto acqua, rene 10. Cosa vogliono dire, metaforicamente parlando? Sono punti che, se stimolati, tendono ad abbassare il fuoco, cioè laddove abbiamo troppe infiammazioni, troppi sintomi di ipercalore. Il punto 3 è facile da trovarsi, soprattutto se siete in spiaggia in questo momento, state ascoltando Radio 24, toccatevi il malleolo mediale, quindi questo osso del piede che sporge, e tra il tendine d'Achille e il malleolo mediale trovate una fossettina, una depressione. Lì c'è il punto 3. Che è questa qua praticamente, sì, no? Sì, questo cioè la caviglia. La caviglia. Prendete proprio la caviglia, sì, poi c'è un affossamento e lì questo è questo punto 3, è il punto sorgente. Ah, però c'è Carmelo Lauricella che deve essersela afferrata troppo in modo brusco, perché è lì che si lamenta. Ha subito un'autodistorsione di caviglia. meraviglia. E l'altro, il punto 10, invece, se flettete la gamba e vedete che si forma una linea nel ginocchio, nella parte interna, ecco, all'inizio di questa linea c'è un punto proprio sui tendini, sui tendini interni, che è il punto 10, viene chiamato proprio punto acqua perché raffredda. Allora, due punti da tenere a portata di mano, per fortuna basta un dito, schiacciamo lì e teniamo un po' premuto per quanto tempo? Un paio di minuti di pressione, quindi non troppo, neanche tanto poco però. Deve fare un po' male? Un cicinin, come un si dice qua a Milano. Un cicinin, dottor Gualerzi. Sì, mi fa piacere il fuoco. Io e la sento, no? Male questo dottor Gualerzi, proviamo a richiamarlo. Sì. Dottor Gualerzi, la richiamiamo. Intanto io vado a sentire Fulvia, che ci chiama dalla provincia di Ravenna, all'800 24 00 24. Ditemi come state d'estate e noi ci attrezziamo, i nostri esperti vi daranno dei consigli per tirarvi su se siete giù. Fulvia. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Buongiorno, che bella voce, Fulvia. È caduta. Emozionatissima. Ruggero, buongiorno dalla provincia di Modena. Mi salvi lei. Eccolo. Vedi che è arrivato Ruggero e siamo... Allora, Ruggero. Io sono un ex insegnante, un podista, e quando arriva l'estate mi sento rinascere. Tant'è vero che esco a correre di distanze, parliamo degli 8, 10, 12 chilometri, alle 11 e mezzo, mezzogiorno, anche in piena estate, luglio e agosto. Del sudore che scivola lungo il corpo, io mi sento rinascere. Poi si arriva a casa, una doccia rinfrescante, mi sento a posto con tutto il mondo. Ecco, era la mia testimonianza che volevo rendere, perché l'estate veramente per me è un cambiamento totale, non sopporto il freddo. Anch'io, Ruggero, non sopporto il freddo e con il caldo rinasciamo. Professor Tirelli, tra l'altro Ruggero va a fare attività fisica in un'ora in cui solitamente i medici dicono riguardatevi, non correte con il caldo, eccetera. Ruggero sfida anche il caldo e corre e ci descrive proprio questo sudore che gli bagna la pelle. Beh, questo è vero in linea generale, il fatto che durante alcune ore della giornata non bisognerebbe per esempio correre, però non è vero sempre. Questo è il caso del nostro radioascoltatore, in quanto, come dicevo prima, ognuno di noi ha una sua tipologia energetica. Ruggero, io credo che sia una persona che abbia una bella condizione metabolica di attività, quindi dal punto di vista della medicina cinese si direbbe un buono yang, una situazione di calore buono. È chiaro che durante il mezzodì, tra il mezzogiorno e l'una del pomeriggio, c'è il massimo dello yang. Allora, a questo punto, laddove c'è una situazione di armoniosa condizione metabolica, è un momento proficuo, mentre potrebbe non esserlo per chi ha una sorta di deficit, di carenza di energia durante questa stagione estiva, durante per esempio le ore tra le 15 e le 17. Perché questo? Perché c'è proprio un ciclo circadiano di attivazione energetica metabolica dei nostri organi che deve essere tenuta in conto durante le attività fisiche. Io con i miei atleti tengo sempre in conto anche questo aspetto, cioè non alleno gli atleti solo esclusivamente nelle fasce per cui si ritiene il meglio allenabile, no, ma ognuno soggettivamente deve trovare nella propria giornata quella che è l'orario migliore. Ma lei ad esempio come fa a sapere il mio? Cosa mi chiederebbe? Allora, chiederei innanzitutto se c'è... Così i miei amici da casa chiamano e possono individuare l'ora ideale, insomma, cogliere l'attimo, cogliere l'ora. Allora, chiederei innanzitutto qual è la stagione migliore per te durante l'anno in cui ti senti meglio. L'estate. Ok, questo vuol dire che hai bisogno di yang e probabilmente il contrario dello yang, che è lo yin, quindi al contrario del fuoco, metaforicamente parlando, sì, è l'acqua. Probabilmente per te l'inverno è un po' duro da sopportare, in quanto le energie sono un po' scarse. A questo punto io vado anche a porre questa informazione nella giornata. La giornata qual è? Il massimo dello yang è mezzogiorno, il massimo dello yin è o al mattino, presto, o alla sera. Allora io non consiglierei a te di lavorare fisicamente o al mattino presto o alla sera, perché sono due momenti che per il tuo metabolismo energetico sono deficitari. Andrei a cogliere quello che è il serbatoio energetico più importante, cioè quello del mezzodì. Delle 11, non sì, a caso dalle 11 a mezzogiorno c'è essere e benessere. Abbiamo ripescato il dottor Gualerzi, dottore? Sì. Lei sì, ci ha sentito? Io vi sentivo bene anche prima. Sì, ma noi la sentivamo male, perfetto. Ok. No, sì, abbiamo parlato di yin e yang, di acqua, di fuoco, no? Anche la medicina più occidentale ormai contempla questi concetti attraverso il sistema simpatico, il sistema parasimpatico e la loro interferenza col sistema immunitario, quindi logicamente l'equilibrio che è proprio rappresentato anche dal Tao, quindi dall'unione tra il yin e lo yang, no? È data dall'armonia del sistema simpatico e del sistema parasimpatico. Il caldo, agendo e facendo produrre la vitamina D, oggi sembra proprio che questa vitamina sia al centro del sistema. È una vera, è la star delle vitamine, questa vitamina. È la star, sì, è la no? star. Oggi c'è molta attenzione culturale su questa vitamina, anche in ambito cardiovascolare, metabolico e funzionale, perché proprio la sua attivazione attiverebbe, quindi è stimolata dal caldo, dalla luce, no, dal sole, stimolerebbe il sistema immunitario e lo regolerebbe, quindi ci renderebbe anche in questa stagione più, diciamo, pronti a difenderci dalle infezioni, dalle allergie. E quindi questa è l'ulteriore dimostrazione di come un ambiente giusto, rilassante, la mente proattiva, positiva e quindi anche gli stimoli ambientali, diciamo, corretti possano generare salute, possano generare energie, possano darci benessere. Però noi lo sappiamo, c'è anche l'altro lato della medaglia, la pressione va giù. Abbiamo un problema di apatia che pervade un po' tutto il corpo, facciamo fatica, no? L'idea anche di muoverci, sì, di concentrarci. Parleremo naturalmente anche di questo con tante soluzioni per voi, per noi. 800 24 00 24, andiamo a sentire che abbiamo recuperato Fulvia che ci chiama dalla provincia di Ravenna. Buongiorno Fulvia, ribuongiorno. Eccomi, eccola. Qua. Allora, sintetizzo, adoratrice del sole da sempre, e fin da marzo mi metto in giardino a prenderlo quando c'è. Quindi una donna lucertola. Sì, una donna lucertola, segno di fuoco, sagittario, sì, nata a dicembre, quindi, e quando arriva giugno sono un po' di anni che vengo distrutta dal calore, dall'umidità che c'è qui della nostra zona, sì, completamente apatia, come dicevi adesso tu, la pressione che mi va sotto i piedi, sono spalmata sul pavimento e vado avanti a furia di integratori di tutti i tipi. E questa cosa mi sta un po' stancando, direi, perché non mi fa vivere bene l'estate adesso. Dottor Gualerzi, qua ci vuole subito un suo consiglio. Poi passiamo al professor, sì, Tirelli, perché ci sono anche nella medicina cinese dei cibi energizzanti che ridanno energia. Fulvia ci racconta una condizione abbastanza comune, almeno anche leggendo i messaggi che mi stanno arrivando. Sì, beh, innanzitutto bisogna fare due considerazioni, parliamo di estate, poi un conto essere state in estate in una città calda e umida e un conto essere in estate in una città ventilata, magari sul mare, quindi questo è una bella differenza. L'altro aspetto è che abbiamo parlato di cambiamento, quindi il cambiamento climatico è vero che può essere favorevole, quindi il sole ci può aiutare, però dobbiamo adattarci anche facendo cose diverse da quelle che siamo abituati a fare, ad esempio idratandoci di più, ha parlato di integratore, quindi dobbiamo bere di più, consumare più sali minerali, quindi alimentarci anche in un modo diverso, altrimenti rischiamo che questo ambiente comunque, pur sempre in alcuni punti anche aggressivo, soprattutto se in città con l'afa e con il caldo premente, possono danneggiarci, quindi questa è una cosa per la quale bisogna stare attenti, e parleremo poi anche di sistema cardiovascolare, perché anche il sistema cardiovascolare, se non adeguatamente protetto dall'eccessivo calore, rischia di dare dei problemi. Parleremo anche di idratazione, per avvertire gli amici che mi stanno scrivendo quant'acqua, quale acqua, prima, durante, dopo i pasti, prima dell'allenamento. Parleremo anche di questo effetto collaterale del caldo e dell'umidità, che è la sudorazione, ci crea spesso un po' di imbarazzo, ma a sua volta può anche irritare la nostra pelle. Essere e benessere. Sono stanco. Vi siete lamentati dell'estate e l'estate ci lascia, questo è il rischio. Angela da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora io volevo dire che ha sentito che l'estate sembra tornare indietro, sì, saranno stati i nostri male, lamenti. Sono molto contenta. Ma no, Angela! E invece sì, perché ho d'estate sto malissimo da sempre. tutto quello che ho già sentito dire, pressione alta, bassa, non ho le forze, eccetera, eccetera, vado avanti ad integratori, eppure sono una meridionale perché io sono di Salerno, quindi io adoro l'inverno, il grigio, la pioggia, il freddo. Evidentemente, Angela, facciamo il cambio, venga a vivere da me a Milano, io vengo da lei a Roma. Ma io ti posso offrire una casa in Costiera Amalfitana. Perfetto. Se ci stai. Comunque, ecco, volevo sapere che cos'altro posso fare. Devo premettere che io sono un'ipotiroidea, però anche quando stavo con la tiroide era una disperazione. Io sto bene nei paesi anglosassoni. Sia come clima e per tutto il resto. Allora, e quindi l'estate per i ricchi che possono stare in panciolle. Per noi non credo, almeno per me no. Viviana ci scrive: con le vampate di calore da menopausa mi sento come un gatto in tangenziale. Dottor Gualerzi, professor Tirelli, vogliamo dare un'indicazione? Angela, che cosa può fare per tirarsi un po' su, per fare un po' pace con l'estate che speriamo si fermi? Beh, innanzitutto bisognerebbe capire cosa vuol dire che sta così male, nel senso sicuramente l'ipotiroidismo influenzerà sicuramente questo malessere, però diceva di soffrirne anche prima, ha detto che l'estate è fatta per chi non fa niente, dipende anche che lavoro fa, dove lo fa, in che condizione lo fa, sicuramente adesso non abbiamo indagato. Ci sono diverse cose da fare, adesso parleremo anche di idratazione, non è sufficiente integrarsi, no? Noi siamo molto più disidratati spesso di quanto immaginiamo e ci vuole poco con il caldo, soprattutto in una zona ventilata come quella dove in cui abita Angela, a disidratarsi pur non percependo la sete. E quindi ad esempio una buona idratazione è fondamentale, esistono anche dei tonici eventualmente da naturali da poter prendere. È logico che valutare bene i parametri cardiocircolatori e metabolici della signora ci aiuterebbe a dargli una mano in più. Certo. Sicuramente, come dicevamo prima, non esiste l'unicità, quindi non esiste che tutti d'estate devono stare bene, questo può essere un'eccezione, magari il professor Tirelli ci può aiutare a comprendere anche con la sua medicina cinese come possa questa signora essere magari più scarica d'estate, secondo i suoi bioritmi energetici. Possiamo suggerire i punti, tra l'altro vi dico che li posteremo naturalmente su Facebook. Io mi sono prestata come cavia, uno lo avevo individuato da solo, l'altro ho dovuto chiedere in prestito il dito del professor Tirelli, che quindi lo trovate e le attivate con se soffrite il caldo, se il caldo vi tira giù o se invece state bene. Professor Tirelli, ci sono degli alimenti anche energetici da suggerire? Sì, perché la medicina cinese rispetto alla nostra medicina identifica gli alimenti come o rinfrescanti o riscaldanti o neutri, non tanto secondo le calorie, per esempio, no? Come noi tendiamo. Allora, ci sono dei cibi che ovviamente in questa stagione dovrebbero essere assunti con prevalenza, che sono quelli ovviamente rinfrescanti. Perché? Perché, come diceva il dottor Gualerzi, chiaramente l'idratazione è necessaria, quindi siccome i liquidi nella medicina cinese sono lo yin, allora bisogna integrare lo yin. Ci sono delle verdure che sono importantissime in questa stagione e che dovremmo assumere. Tipo? Sono gli spinaci, la bietola, il sedano, lo zucchino, le melanzane, le varie insalate in genere, i cetrioli, il pomodoro crudo. Queste sono prevalentemente rinfrescanti tra le varie verdure. Poi abbiamo una cosa interessante, i frutti di mare. In questa stagione chi va al mare assume generalmente in quantità maggiore. Allora, ci sono, secondo la medicina cinese, dei frutti di mare ottimi, rinfrescanti, che sono le vongole, la seppia, il calamaro, le ostriche, ma per esempio non lo sono le cozze e i crostacei, che invece sono neutri yang. Per cui chi dovesse soffrire troppo il caldo, quindi recepisce questa yang in eccesso, limiterei in questo caso le cozze e i crostacei. Poi ci sono i cereali come il miglio, l'orzo, il grano, la soia, il tofu, il latte di soia, quindi anche. E poi chiaramente le carni, in questo caso secondo la medicina cinese, cosa che per noi è un po' magari idealmente strana, è il maiale e il coniglio sono migliori. Ok, perché sono carni rinfrescanti quelli e non riscaldanti. E poi come ultima cosa, chiaramente la nostra cara frutta, e in questo caso i migliori sono la mela, la fragola, il mirtillo, l'ananas, l'anguria, il melone. Insomma, è sempre un po' tutto il mondo paese, dottor Gualerzi, o no? Sì, devo dire che ci sono ormai molti punti di contatto, no, tra le varie scienze, anche perché più scopriamo, più studiamo, più ci rendiamo conto che alla fine spesso si declina in modo diverso, però lo stesso concetto, e quindi alla fine ci si ritrova. Dottor Gualerzi, mi scusi, lei ha sottolineato, un ascoltatore me lo fa subito notare al scrivendomi un messaggio, che noi siamo poco idratati e non ce ne rendiamo conto. E che comunque, come voi lo ripetete spesso, bisogna bere prima di aver sete, quindi assecondare lo stimolo, ma soprattutto prevenirlo. Ci dà qualche indicazione per quanto bere, cosa bere? Lei faceva riferimento, oltre all'acqua ci sono anche dei tonici naturali. Sì, in realtà appunto il fenomeno della sete, come spesso i bisogni più reconditi che abbiamo, vengono un po' cancellati o nascosti dallo stress, quindi ognuno di noi sente molto meno sete rispetto alla reale sete che ha. No, noi dovremmo bere circa 1,5 litri, 2 litri d'acqua al giorno per avere un ordine di grandezza. Più o meno si calcola che circa dovremmo bere il 3% del nostro peso corporeo. Quindi, per fare un esempio, una persona di 60 kg dovrebbe bere circa 1,8 litri, 1,5 litri, 1,8 litri di acqua, no? Logicamente questo dipende poi dal tipo di attività che uno fa o dall'ambiente che frequenta, quindi può essere un po' di più o leggermente di meno. E diciamo che esistono anche dei metodi per capire se siamo ben idratati, no? Anche se siamo in radio, no? Si dice che guardando il colore della pipì possiamo dire quando è chiara e quindi ha un colore abbastanza simile all'acqua, siamo abbastanza idratati, quindi man mano che diventa più scura, no, questo vuol dire che stiamo concentrando le sostanze all'interno delle urine, quindi abbiamo poco liquido, poi siamo poco idratati. Ma anche la tonicità della pelle possono essere un test importante, quindi quando la pelle si fa secca, diciamo, e diventa meno tonica, meno elastica, ecco, questo può essere un segno di disidratazione cellulare. Tenendo conto che l'acqua, per quanto possa essere strano, è la prima fonte energetica. Senza acqua non riusciamo a fare il nostro metabolismo, non riusciamo a produrre energia. L'acqua è all'interno di tutti i processi metabolici che generano energia. Quindi se non beviamo a sufficienza, diciamo che questi fenomeni vengono a mancare. E possiamo controllare, e lo diciamo anche se siamo in radio, anzi soprattutto perché siamo in radio, controllate il colore della vostra pipì. La pipì la facciamo tutte, quindi basta controllare il colore. Se è tenue, giallino pallido, significa che stiamo idratandoci nel modo corretto. Ma lei faceva riferimento anche a dei tonici naturali che possono essere d'aiuto soprattutto alle persone che si sentono andare un po' giù con il caldo. Sì, ecco, un'altra cosa appunto, queste sostanze non sono da confondere con i succhi di frutta, soprattutto quelli industriali o comunque con le bevande gassate, che spesso, diciamo, ci tolgono la sete nell'immediato, ma poi ci assetano di più per colpa di zuccheri. Tra l'altro, quando beviamo zuccheri semplici, come molto spesso all'interno dei succhi di frutta troviamo, si innalza l'insulina e quindi questo sappiamo che ci blocca un pochino il nostro metabolismo, ci fa sentire più stanchi, no? Invece ci sono dei tonici naturali che vengono chiamati adattogeni, cioè ci adattano il nostro corpo a affrontare gli stress, anche quelli climatici. Uno su tutti, che abbiamo citato già qualche altra volta, ma che in questo periodo trova la sua massima efficacia, è la maca, che è una pianta tuberosa, no? Tipica del Perù, ma che ormai si trova ovunque, che è ricco proprio di quelle sostanze che abbiamo bisogno, cioè sali minerali, calcio, fosforo, zinco, magnesio, ferro, no? Così come vitamine del gruppo B, tutte sostanze che stabilizzano i valori pressori, danno tonicità e forniscono proprio quell'energia necessaria per affrontare la giornata senza per questo eccitare, quindi non è un'azione eccitante ma proprio un'azione tonificante, quindi non ci iperecitano, no? Come per esempio la caffeina, ma ci rendono più tonici. Quindi come si assume? Sì, ad esempio si trova, questa può essere trovata in bacche oppure può essere trovata anche in polvere, e questa polvere può essere aggiunta magari in un piacevole frullato insieme a melograno, insieme a quelle verdure che è stata citata anche prima dal professor Tirelli, fare un centrifugato misto fra verdura e frutta, aggiungendo 2 cucchiaini di questa maca in polvere con un effetto immediato energizzante. Tra l'altro oggi è stata sdoganata perché molti divi di Hollywood ne parlano. No, come elemento super giusto per potervi permettere di rimanere giovani, quindi anche un effetto anti-aging, perché no? Quindi insieme al fatto di darci tonicità, di renderci più attivi, ci rallenta anche l'invecchiamento, perché è un ottimo antiossidante. Essere e benessere. E siamo tornati insieme, dottor Gualerzi, la pianta, ripetete il nome della pianta peruviana, la pianta che arriva dal Perù, si dice malga, maca, facciamo lo spelling. Milano Ancona, Como Ancona. e si diventa belli come i divi di Hollywood, certo, mi scrive un ascoltatore. Come Gwyneth Paltrow, che è una delle fautrici di questa pianta, insomma una delle fans di questa pianta. Stefano ci chiama dalla provincia di Modena, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno, volevo fare una domanda. A me puntualmente durante l'estate, con i primi caldi, mi prende le gambe una stanchezza che praticamente faccio fatica anche a stare in piedi alcune ore, insomma. Volevo chiedere questo, cosa posso assumere? Il professor Tirelli mi parlava proprio mentre sentivamo le informazioni sul traffico, che si era annotato dei consigli per dei punti magici per le gambe gonfie. Sì, perché in questo caso ci sono due meridiani che non a caso riportano i liquidi, il meridiano del rene e il meridiano della vescica urinaria, che sono posti proprio l'uno all'interno della gamba e della coscia e l'altro proprio dietro, sui cosiddetti polpacci, sulla parte posteriore della coscia. Allora, già noi con un'autopressione, partendo dalla caviglia per esempio, all'interno possiamo farci delle veloci ed energiche autopressioni sul gemello mediale, quindi sulla parte interna del polpaccio, sulla parte interna della coscia, per almeno 3 volte. E poi dobbiamo farci delle autopressioni anche dietro ai polpacci, dietro il cavo popliteo, quindi nella parte posteriore del ginocchio, e dietro alle cosce. Un altro elemento importante è lo stretching, perché se io faccio il classico stretching di allungamento di tutta la catena posteriore, qual è? Sono in piedi e fletto dolcemente il mio tronco, lascio cadere le braccia in avanti, lascio cadere la testa verso il basso, sentirò tutto l'allungamento della parte posteriore, delle gambe, delle ginocchia, della schiena. Quella è l'attivazione di tutto il meridiano della vescica urinaria, responsabile, quando è scarico di energia o troppo contratto, di questa stanchezza delle gambe. E poi ricordiamo il punto dell'acqua. È proprio il punto dell'acqua, il punto 10 del meridiano del rene, che è all'interno del ginocchio. Margherita Serafini, quarto banco, fila centrale. Ah, oh, Postiglione, come stai? Carissima, carissima. Ma che hai fatto, il bagno? No, solo sudore, ma la sudorazione, come tu mi insegni, non è provocata soltanto da agenti termici, ma anche da fattori emozionali. E più beviamo e più sudiamo, e molti bevono meno per evitare questo effetto collaterale. Non è una buona soluzione, ma non agitiamoci perché rischieremo di sudare ancora di più. Ma affidiamoci al dottor Politi, dermatologo che si occupa di medicina anti-aging. Buongiorno dottor Politi. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. È utile il sudore, e lo sappiamo, ma ne faremmo volentieri a meno, tant'è che dobbiamo fare i conti in estate, comunque insomma il sudore si fa vedere, notare, la pelle diventa più appiccicaticcia e noi vorremmo scrollarcelo di dosso. Esatto, noi sappiamo benissimo che in estate sudiamo tutti di più, che come ha detto lei, però sudare è utile ed è necessario, e ci serve per mantenere la nostra temperatura corporea, e grazie all'evaporazione del sudore abbiamo quella sensazione di freschezza che ci permette di affrontare il caldo. Quindi è assolutamente utile, questo lo sappiamo, ma dottore, sudiamo di notte, di giorno, quando ci muoviamo, stiamo fermi, c'è chi suda in modo evidente, chi un po' meno riesce a mascherarlo, ma... Sì, effettivamente ci sono delle situazioni come l'ansia, lo stress, che aumentano la sudorazione. Vediamo in questi giorni gli studenti che hanno l'esame di maturità, situazioni ad esempio legate allo sport, vediamo quelli che fanno jogging che hanno le magliette intrise di sudore, oppure persone che non hanno né crisi di stress, non fanno sport, ma vivono per esempio in una città afosa e di notte hanno un'abbondante sudorazione. Dobbiamo dire comunque che abbiamo in generale 2 tipi di sudorazione, sì. Una sudorazione che è l'iperidrosi, che è una sudorazione profusa che colpisce la fronte, il cuoio capelluto, le ascelle, il corpo, le mani e i piedi, e però è una sudorazione che non ha un odore pesante, sì. Mentre abbiamo una, diciamo, sudorazione più limitata, diciamo al cuoio capelluto e alle ascelle, che può avere un odore più pesante. Posso dare una soddisfazione, una chicca per le persone che hanno la sudorazione, diciamo, più pesante? Sì. C'è uno studio proprio sull'alimentazione che è stato fatto nel 2006 nell'Università di Praga, dove 17 soggetti hanno fatto fare un'alimentazione con carne, solamente carne, e tutte le sere testavano la qualità del sudore. Gli stessi 17 soggetti, dopo un periodo di pausa di questa dieta, hanno fatto una dieta vegetariana ed è stato dimostrato che la qualità del sudore era ottimale, cioè quasi tutti avevano perso l'odore pesante nel loro sudore. Per cui è molto importante l'alimentazione in questi soggetti, è molto importante sapersi anche vestire, perché noi diciamo sì che abbiamo tutto appiccicaticcio, ma perché assolutamente dobbiamo evitare i materiali sintetici, dobbiamo prediligere il cotone, il lino, la seta, portare i vestiti larghi. Eh sì, perché così circola l'aria, si circola dice. Circola l'aria, esatto, senta, evapora più facilmente per il discorso che abbiamo fatto prima, che l'evaporazione ci dà quel senso di freschezza. E poi è giusto aumentare la quantità di acqua dentro l'urre, perché è assolutamente necessaria per mantenere questo equilibrio, se no uno poi rischia il colpo di sole, rischia lo svenimento perché non beve abbastanza. Grazie dottor Politi, ma prima di salutarla mi dà anche un consiglio per i bambini che in estate per effetto del caldo umido si ricoprono di quei piccoli puntini, sudamino, sudamina, non ho mai capito da dove vada l'accento. Sudamino o sudamina, lo diciamo sempre tutti in modo diverso, non si preoccupi. Il problema è che sono i genitori che li vestono troppo. Ah, ecco, i genitori c'entrano sempre, vede? Sempre colpa nostra, quindi il pupo si veste leggero. Troppo, va vestito più leggero, bisogna farli spesso dei bagnetti freschi con amido di riso e poi bisogna stare attenti anche al peso del bambino, perché noi in dermatologia vediamo bambini leggermente sovrappeso, un po' paffutelli, che nelle pieghe del collo hanno molte di queste vescicole, che poi molto spesso addirittura possono macerare e dare proprio infezioni alla pelle del bambino. Poi è importantissimo che il bambino venga fatto riposare in un ambiente fresco e non come noi vediamo sulla spiaggia sotto l'ombrellone a mezzogiorno avvolto in un asciugamano, perché la mamma ha paura della brezza e così il bambino è lì messo a cuocere al sole e per forza si formano queste reazioni cutanee. Quindi mamme buon senso, lasciatele un po' nudarelli. Dottor Politi, grazie. Anche se ci ha bastonato, è abbastonato proprio alle mamme, ma naturalmente con benevolenza. Grazie. Grazie dottore. Vogliamo regalarci questi due minuti di trasmissione per regalarci un consiglio per l'estate? Dottor Gualerzi, le do un minuto e poi allora, passo al professor Pirelli. Riassumendolo è quello, allora abbiamo detto idratarci bene, quindi bere sostanzialmente non schifezze, ma bere principalmente acqua, eventualmente integrandosi con un po' di sali minerali o con sostanze adattogene come la maca, abbiamo detto una delle principali, ripetiamo maca. Mangiare tendenzialmente vegetariano, no? Questo aiuta anche il sudore, quindi proteine di origine vegetale, molte verdure, cereali integrali, aiutano a dare energia, abbiamo visto, e aiutano anche a mantenere stabile la pressione. Tenere uno stile di vita sano vuol dire anche dormire bene, quindi andare a letto sempre più o meno alla stessa ora e cercare di riposare con il buio, di svegliarsi certo, con la luce, anche se questi ormoni sessuali aumentano e quindi si tenderebbe a fare tardi, il dottor Gualerzi ci raccomanda di essere un po' morigerati. È meglio svegliarsi prima la mattina, perché non esiste ora, insomma, anche ha ragione, non ci avevo pensato. Dottor professor Tirelli, anche lei ha un 30 secondi. Sì, l'unica cosa appunto sottolineare il fatto che non c'è bisogno di questo apporto proteico dalle carni durante l'estate, perché è quello che accentua maggiormente le problematiche da ipereccesso di calore, questo. Grazie allora per essere stati con noi, a Carmelo Lauricella in regia, alla parte tecnica Laura Vanossi in redazione, professor Tirelli, dottor Gualerzi, noi ci sentiamo presto, invece con gli amici di Essere Benessere ci sentiamo domani alle 11, vi aspetto, buona giornata. Essere e benessere.